sento più il rumore che accendi. Allo. Sì, già ho capito. Cos'è il sciametto? La persona sta controllando. Cazzo. Dito adesso la banda da materiale. Ma l'ha beccato? Non lo so, l'ha registrato, comunque l'ha fatto anche sentire il rumore. Sei riuscito a contattare Giuseppe? No, perché c'è il telefono spento. Già, miseria. Quanto costa quel ricevitore uguale al tuo, già? Ma se riesci a contattarlo, già, quelli di suonare in zona, di suonare il campanello, magari. Un attimino. Porta proprio. Ora, sotto zero non è porta. ti vedo. Allora, vai a stella là. Ci sarà qualche spezzone in corte, eppure non mi rosignava con il destra, che mangio tutti controllati, nulla. Io mi rimonteggio il mio e riporto d'ora a noi. Guarda, ma ti faccio così, te la stella. Vai, con fuori. Capito, ma vabbè, capito. Come ti hai chiamato la tariffa? Cuocuomane. Cuocuomane quello, eh. È un cuocuomane quel Luca. Luca Pugioni, cosa vuoi? Gli dica il numero del telefono, oppure 26-18-26, telefonata tutte le ore. A quel cuocuomane di Luca Pugioni. Ma dimmi una cosa, ma si va a quadro in cantiere, vuoi sostituire a Parigi? Cosa? Se non altro fu in cantiere, cosa succede? Dimmi. Sei uno? Rufo in cantiere, cosa succede? E che ti scusi, immediatamente vola. Ma che non puoi più reggia? E come se, vabbè, uno è normale, cerca di non sboccarsi, ma si trova agli endi, ti riarricchio, guarda lì. Ma tu guardi che si muore la divisa, mentre la pena è pulita, pulita, pulita. Sta a te facendo il buco dopo si brutta, e poi abbiamo il procorazzo. Perché uno si è sboccato, tu diceva, ti ho toccato, si è sboccato. E abbiamo arrivato, sono un buco, ma te lo puoi pubblicare, lì, ma dov'è il problema? Ti cura con la piazza, e quindi mi la barra, non è pure in mira. E poi la si è calmata, se non voglio il cagiometra, che uno ci vuole più lavorare. Solo se la non mettere mai le mani addosso a nessuno, perché sennò c'è licenziamento in tronco e lo pensi più, eh? Io sono una cosa grave, non mettere le mani addosso a nessuno, mai. Sono dopo un po' pulito in capo. Quelli bravi vuoi di tutto, però non mettere mai le mani addosso a nessuno, perché lì nell'amministrazione funziona così, se tocchi qualcuno ti ci buttano immediatamente il fuori e non c'entri più perché te lo scrivono qualcosa, non tanto mia alcune rimane cosa a nessuno, Luca, me l'ha disibito. Che cazzo allucinante, è allucinante, profumino, cazzo, tutto profumato di bene, ma ti rendi conto, in cantiere è tutto profumato, un schifo proprio. Ma io non ho visto persone, ma come sta qua, boh, devo informare bene che tipo di persona è, perché già è mezzo di pilota, no? Adesso mi devo informare una persona a vedere che tipo è. E che poi mi sei minacciato di una bara, di cui un vincio, anche da oggi sta vincendo la macchina, dicendo quello, dice, ma adesso fai il caso, ma dove ti mettono fuoco la macchina? Non chi se la prendono, secondo te? Come se la prendono? Quello è la bisogna. Tu, molto più dimmi, non mi avete nessuno, fatti che trovi un duio, è tranquillo. Vabbè, comunque. Io lo faccio lavoro mio, sì. Mi faccio il mio e quello degli altri. Non il mio e quello degli altri. No, tu devi fare un duio, tu lo trovate, tranquillo, e non dà confidenza a nessuno, a chi si sono ambientati, è meglio fare sempre il signore Luca, suona sempre. Se ti abbassi la butta per meglio tu. A parte buttano quella calcio in culo anche a lui. Però per colpa sua poi buttano quella calcio in culo anche a te, per mai marchiato un attacco a briga, non ti piglia per nessuno. Ma cazzo, allucinante, cioè se i cavalieri ci ripava gli enti. Ma non si butta nulla. Cioè per la roba, semplicemente, non riprende se le appoggia, ma ti spuoi che le esce, no? Lo prende la mano a braccia lunghe. E io là. Non imbruttarsi, tu non vedi, quando arriva in cantiere, c'è la scarpa e poi se tu non vedi la scarpa, ti può dire che ce li ha, però sono proprio poco sporche, così la porta del cemento. Come arriva giù, si prende un sacchetto, se lo bagna a bello, si prende la scarpa e si fa lucida, lucida, lucida. Dai, mi sono travagliendo, mi. Cioè, con la somma dell'ingazzata un coso. Utilizzi una. Non so, boh, chiama come vuoi tu. Simone, si può attaccare il profumo in alto. E poi il profumo in alto me ne lascio. Ah, sarà mezzo gaio. Ma che mezzo profumo in alto? Ma non è messo male veramente. Ma tanto l'uomo di Luca, gli amici di me. Ah, potete dire Luca. Vedi, se si può risolvere a parole, parla con qualcuno lì che è più in alto. Io lì mi cerco le tre, se non prendo la mazza. Altrimenti. No, perché si lavora male, se l'ambiente non è tranquillo, si lavora anche male, già un lavoro bello poco pesante. E se in più c'è anche discordia, travagli male, ovvero. Il processore non sta bene, dovrebbe mai superare i 45 gradi, se ne vede qualcuno, ti dà la temperatura dei dischi, ti dà la temperatura della stereotipo, ti dà la temperatura della tasca da madre, i giri della ventola, la temperatura del processore, tutte le temperature e anche i giri della ventola, e lì ti accorgi subito qual è il problema, tutto lì, nel nascimento. E di conseguenza, quando una di quelle temperature supera i 40, 42 gradi, ti accorgi qual è. Cambio lo scrivo su Google. Allora, aspetta, vai la taglia, riprendi. Cappa, cosa faccio? La stampantina domani te la porto, dimmi se ti lo vuoi fare, là, tanto va, è tardi. Ci andiamo a prendere anche un po' di aria fresca a furia, sta cominciando a fare belle serate, si può scappare in giro un poco, poi finire a gare oggi. Però mi sembra che c'era qualcun altro sotto, avanti, buonasera. Vai, adesso Adriano, piano, metto la permettere, vai. Guarda, si chiama Speed Fan, ti dico proprio come si scrive, si pronuncia Speed Fan, Speed Fan. Santiago, Papa, Eco Delta, Foxtrot, Alfa November, Sped Fan. Sì, sì, il trovato, ascolta. Ma dice, a che sono temperature, sensori in your computer? Non vuole di Sped Fan, a che sono, papà, non vuole. Sì, scarica e installa. E ti fai la diagnosi da solo. Te le controlli da sulla temperatura e scopri subito qual è. Vedo un'ora che è qua. Questo. No, ma solo cerco, vediamo un po' se riesco a scaricare. Dove la taglia riprende? Natale c'è, non lo fai. No. Sto cercando quel programma anch'io. Ma dico io, ragazzi. È uno dei programmi più famosi, usiamo tutti quanti. È bello perché per esempio nei PC desktop dove puoi regolare la velocità delle ventole e mettere gli allarmi vari, lo puoi usare per accendere e spegnere le ventole quando non ce n'è bisogno, o fare girare un tot numero di giri a seconda di una serie di vendi. Io ce l'ho, ma mi faccio calare anche la velocità del processore al minimo possibile, che sarebbe 2 GHz dai 3 più 3, quindi praticamente è quasi spento, per navigare va benissimo. Adesso me lo scarico pure io e poi sempre servire. E beh, mi sono cazzo. Ma io lo uso quando ho sempre i PC, perché logicamente se quando devo usare cavolo li metti dentro, se sono schede video enormi, processori bestiali eccetera eccetera, sarebbe per sapere quante ventole ci vogliono e dove vogliono posizionate, perché a volte ci vogliono anche 4-5 ventole. Lo scarica. Mica gratis di me. Ma addirittura l'ha scritto un italiano, un ragazzo italiano. Ma cosa vado un load? Cazzo è fatto. Aspetta, guardo io. Ma scrivo, perché come dici tu che è il nome del software, che sono migliaia di download. Infatti. Non lo ho, io faccio questo. Non lo ho. No, vedi un po' chi è, sentivo secondo, terzo e quarto, quinto, tutto. Poi mi dice di registrarmi. Dice di registrarmi, a me così ti dice a te. Avanti. Sto cercando la Giuseppe, non c'è, vero? Vieni là tu, mi fai chiamare, Giuseppe ci sei. Aspetta Giuseppe. Certo, però stavo chiamando anche al telefono. congiuntamente devo dire una cosa, va bene. Riprendete. Sì. Andrea, il primo non va andato, il secondo non è avanti, spiti. Non vuole di spiti, fa un italiano, guardate, scarica, fa. Ok. Italiano, vediamo, faccio prova. Forse l'ho trovata, aspetta, vediamo un po'. Ora non riesco a trovarlo. Sì, va, sono beccato proprio direttamente nel sito proprio di Alfredo. Di Alfredo, direi di compagni, di cavolo si chiama. Se clicchi sulla scrittura spedizione, quella blu, parte il download. Ma c'è solo un parco, aspetta, qual è la prima, la seconda, la terza, la quarta, qual è? È che non so dove cavolo sia tutto. Se è scritto in inglese. Io sono cliccato su download e mi è scritto download, no? Scritto in blu. Qui c'è scritto in inglese, tendete la versione SpedFan 4.4, che insomma la scarico anch'io perché io ce l'avevo la 4, quella dell'anno scorso. E c'è SpedFan scritto in blu, per un link, tu ci clicchi sotto e te lo scarico. Aspetta, non è auto. Se vuoi fare una donazione la fa, non c'è problema, non fai il palla, è gratuito. Adesso l'ho lanciata a controllare. Processore 1 27 gradi, processore 2 28 gradi, processore in generale 30 gradi, al disco 28 gradi, al disco 1 30 gradi, al disco 3 31 gradi. Ventola nel processore 1162 giri, ventola supplementare 573 giri, ma credo che sono ferme, perché io vorrei che mi fai un po' quello di infreddato. Fornisce una pagina e tutto, non è sicuro che lo fa caricare, è una pagina vuota praticamente. A sinistra, a destra, dove c'è scritto download, sotto c'è scritto The Latest Version is SpeedTron 4.40 e tu schiacci lì, c'è scritto in un altro colore, in blu. Capito? Ecco, l'ha già scaricato da me. Sulla scrittura punto mi devi cliccare. Ma via. Allora, la scrittura qual era? Aspetta, temperatura. Thank you. c'ha il cervello fuso lo trovi tu, no? Cosa cazzo ti dica? Ho un terminatore, ma faccio una file sulla scena, ma non è fallo. Lo sto anche usando. Sì, però, intanto però se serviva a Cosoli, a Lucca. Vabbè, se insomma scoprirai che c'è qualche roba calda, no vabbè, non sta facendo un caldo, quindi non riesco a dare da qui niente, attenta, c'è il culo ghiacciato. È a Lucca che serve, ragazzi. Cosa Adriano? Cioè è tu il team view, guarda quello che fai a computer. Se tu ti la password, lì ti la password, non ti dico di tu. Cinque di te di non. Non riesco a capire io come mi stai dicendo tu. È strano, perché a me è così, non mi dico, tu al volo, guarda la scarico. Ma quello stava a me in piedi. Non c'ho manco il diritto tuo di poco, soltanto mi ha dato il software direttamente con l'indirizzo, www.almico.com e sopra, vabbè, c'è tu barra, slash, trasmettete in radio, non capisci, è una mazza. Il mio, ma di una sera stai dicendo, la cosa di una sera? Era loro. Segna Lugariello, Lugariello, @hotmail.it. Ah, sopra una testa, aspetta che lo segno. Con la C o la G? Luga, con la G. No. Ebbene, Natali, che temperatura c'hai tu nel bucio? Trattato si è appassionato, ma i denti cosa tutto vuoi tra le temperature, la velocità del vento, la cosa stai guardando? Temperature. E che dice, che dice? Come sono le temperature? Come sono? Dice di voltare, giusto, cresce velocità. Non ho capito niente cosa hai detto. Ho detto, ti dice i volt, le velocità, tutto ti dice, i voltaggi, mi ha detto, scusa, che lento. Clicca su Show the Magic, e ne vedi ancora di più di roba, se non toccare, non scrivere niente, pulsante, pulsazione del genere, perché ti imposta le velocità delle ventole. Questo non mi si è più spento, non so cosa ho fatto, ho attaccato la batteria perché era sempre attaccata. Vabbè, è che niente. Già scalda il portatile, in più scalda anche la batteria, ma tutto un pappone, ma non penso che. Vabbè, oggi sta facendo un po' più caldo, ma non penso che sia tutto questo caldo da provocare lo spegnimento della. Perché mai è un'autoprotezione, quindi se si spegne. La protezione c'è, di solito il processore che se ne va in autoprotezione prima di fondersi. Non l'ho mai fatto, Riabu. L'altro giorno ho messo l'avvio di accensione, l'avvio di Windows, si bloccava, due volte mi si è bloccato. Non partiva più. Non capivo il. Non capivo il. È sempre andato. Ha fatto così, buffo, tagliato, non andava più. Ho fatto più volte e poi si è ripreso, adesso va tranquilla la grande. Poi, vabbè, ma guarda, adesso vicino me lo compro nuovo, così, sono del nuovo, e buona classifica. Ehi, guarda, ne ho comprato uno sabato, Euronix, 550 euro. Core 4 GB di RAM, 500 GB di hard disk, un bel bestiotto per essere un portatile pochino, della Acer. Ma qui c'è un tuo, ho detto, com'è? Hard disk come c'è, com'è? RAM? Windows 7, perché ormai li vedono tutti con Windows 7, perché è più veloce di Vista e anche di XP. Windows 7, RAM 4 GB. La disk 500 giga ed è un dual core, c'è anche la versione 4 core, costa 100 euro in più, ma un dual core c'è per il push. Provo con un misurio, Adriano, è una puttana, sai. server. Anche perché dentro il server c'è anche XP, e li puoi usare nello stesso momento. Ma siccome io uso un programma, capito? A me mi serve lo Stereo Mix, l'unico, come si dice? Un casino. L'unico problema è che io con lo Stereo Mix di XP vado alla grande. Il Vita lo stesso, ma secondo. Non so se c'è lo Stereo Mix Windows 7. Stereo Mix, che si usa per mandare l'audio insieme al microfono? No, proprio di musica o parli, capito? Invece con XP parli ma di musica, canti, anche su di voi. Il mio c'è. Tanto dipende dalla scheda audio, molto bene sono scheda audio, su tutte quante altre canali, quindi. Non lo so. Ecco qua. Fai, prova. Ci hanno mandato, però, è sotto forma di foto, deve essere fatta come una foto, che è JPEG. Salva la foto e poi rinomina punto exe. Thank you. basta, così non scalda. Dici, va, 5 watt, là, 34 muro watt, va. Sono i capi che si pingali, non piace da parecchio. Ma perché non fai prima a caricartelo? Te lo dico io dove andare. L'abbiamo insieme. Vabbè, non posso andare, ma se no, però c'è anche altri guaglioni. Non ci ho mai capito niente di Messenger. Non c'è l'intenzione di fare, buonanotte. tutto di dire che compresso tu le spalle speed di fare qualche nada no no per tu pressi no. Ciao via. Ciao Gian, scusa, non ti ho saltato quando parlando in verticale, mi ci avevo fatto cadere giù anche tu. Apri una cartella qualsiasi Luca e clicca su strumenti. Allora, aspetta, scusa un attimino, non ti ho capito. Vai su strumenti, mi hai detto. Apri una cartella qualsiasi, una a caso. Quale non l'ha detto? Sì, una che si sia. Apri una che ti viene a portata di mano, aprila. Musica, vai. Ok, vedi nel menu in alto c'è scritto strumenti. Strumenti, ok. Clicca su opzione cartella. Fatto. Clicca su visualizzazione. Fatto. È uscita una lista di file di opzione. Sì, sì, sì, sono uscita. Adesso conta, vediamo un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alla 14esima linea dove c'è scritto nascondi le tensioni e file conosciuti, mettici una spunta. Allora, nascondi la tensione per i tipi di file conosciuti. Metti una spunta e clicca su altri. C'è già la spunta tria. Ma nel triangolo stai dicendo? Non è triangolo là? Un rettangolino. Vabbè, ci sono quelli rotondi, spuntati e poi quelli rettangolari, là, diciamo. C'è già la spunta, nascondi le tensioni per i tipi di file conosciuti. C'è già la spunta. Allora, tu dici, quello è il problema. Clicca, ok. Sì, allora in poi, almeno sai che tipo di file stai usando. Adesso sul desktop ti trovo quel file di quella tensione. Aspetta, vediamo un po'. Vediamo un po', allora. Se facciamo anche il primo, va a un culo, No, se c'è la spunta non c'erano. Ti appare solo se togli la spunta. No, qua c'era lì. Aspetta un attimo. Sta via. Extrai L. Yes. Dai, su che andiamo. Che casino, dai, va bene. Facciamo girare solo come puoi dire, vai già, riprendi. E infatti non c'è problema, che c'è rotta, avanti Natalino. Ehi, buonasera Gianni Capri2, che non ho fatto in tempo a salutarti, ho cambiato apparecchio anche e mi sono acquicciato. Stavo facendo le cose del computer, da lo fare. Allora. Quindi la vedete migliorato da te. Cosa però? La modulazione? Vabbè, segnala la modulazione, va. Stava questo modo ci incontriamo in tanti casi, a Palo, al tubo. Questo pomeriggio un po' parlo, non va bene, prima il segnale era 1 e adesso sei più di 9, come poco di va, se gli stai sparando un'ottantina di watt sotto al quoziente, un giorno sotto. No, no, 10 tondi so, 10 tondi, aspetta, ora sono 50, guarda un po'. Sì, via. Quindi vera, in tre rami, in quattro. Tre maniari e un volatore. Un volatore è un tre maniari. Come nel culmine. Sì, davvero, facciamo una cosa, non da questo. Non sai che me la sono pagate bene, non fanno niente. Non la fanno però. Migliaia. Avanti. Cioè, mi fa girare che poi c'è la tavola e mi sembra in bianco. Una volta, mio cugino stava facendo la casa in campagna. Si è andato allora verso le 4 ed è stato l'ha trovato tutti sotto l'albero. Sdraiati, mangiandosi un balino. E mio cugino ha detto, ma come mai siete tutti quanti? E mi diciamo mangiando un balino, ma rilassati, sicuro che amici continueremo. E loro avevano già mangiato, non è che non hanno mangiato perché staccavano a mezzogiorno, poi mio cognato si tornava a casa, li lasciava lì, in campagna, e va a dire che sono gli imbiadini. Quanti piedi? Ora, quanto attivati? Buonasera a tutti. Buonasera Pierpaolo. Buonasera Cesquale a tutti a Bonaro. Antonio attivati. Ha già fatto, buonasera a tutti da parte mia. Manto. Ciao Antonio, ciao Paolo, che Paolo. Ciao Paolo, finalmente ti sento. Pioggia, non ci riesci. nome su, io sono previdente, le cose le so. Tipo contributo, quella di cui si appenso noi. Avanti a te la ricredita. Vabbè. Avanti Luca. Adriano. Nada. Si manca la tarina. Sanato, da prendere, non sta poco compreso. Ah, che cosa è proprio il mamma? Adesso mi conto io, roba, ma una volta che è filato il filo già polpa, già fa il lodo, come il cane. Da paura di darsi contro dentro a un lodo. Buia. Charlie, prenditela. Doppio whisky. Cavaga, ma c'è anche Antonio, Antonio. È vero. Antonio. Quindi il trattore avrà pigliolato a lui. Come si svolge? Io la sorge non me l'ho messa in tasca, anche mi è rimasto la gamba rigida tutto il giorno. Aspetta. Che per poco fa una cosa, vi saluto a tutti circolarmente, senza lasciare nessuno indietro, vi saluta. Ciao per qua, buonanotte, buonanotte. Ciao per la buonanotte. Anch'io, dai, ci sentiamo, buonanotte, buon tutto per le mani. Ciao, vabbè, ma ci sentiamo. Ma fa lì, fa lei quella cosa, quella roba dell'autista giù, che ci? Domanda di autista, non ce n'è una domanda di autista. Ma la provincia, ma cosa sono le belle, siamo per stamattina io con Fabio. C'era la domanda dell'autista, stiamo cercando l'autista, i patenti C per fare pulizia nelle cunette. No, che vogliono giardinieri, ci vuole la qualifica di giardiniere, con la patente C. Bisogna leggerla bene la domanda. Perché lo so, infatti. Ma io la qualifica di giardiniere non ce l'ho, capito? No, vabbè, io c'ho quella, ma me l'ha accettata lo stesso a me addirittura. Ha detto anche se non c'è patente, che ci non c'entrava nulla, mi ha detto quella. Quella lì non la posso fare io, non c'è la qualifica di giardiniere, capito? Vabbè, pazienza. Cosa vuoi dire? Io sono... L'altro giorno l'ho fatto e me l'ha accettata. Tanto che... Basta per la qualifica di giardiniere, non è stata valida la patente C, non è che tutti quanti devono avere la patente C, sono 12 persone. Capito? Solo per quello l'ha accettata. E perché ne vogliono 10, ne vogliono di giardinieri con la patente, gli altri no. Ok, va bene. Pensavo che non avevi fatto il conto, l'ho chiesto. No, basta. Avanti di doppio ritorno e prendite là, riesce a passare a 5, così si parla di meno. Ehi, c'è anche il signor Capri2, l'uomo coi baffi. Sono 12 artisti, tutti quanti devono fare gli artisti, mi ha detto. e intanto mi sono fatto dire pure che il sacco è un vincere adesso, quindi boh, gli ho detto cazzo, non è molto a guidare un coso con la patente C e stanno descendendo le cose e poi c'è il dire tipo cosa come la chiamano la moto è automatico, non preso, quindi ci vorrà qualcuno per forza che ferma delle, come c'è adesso nei cantieri che tutti stanno tirando gli alberi, c'è quello che tiene la paletta per fermare le auto, per far passare le auto dall'altra parte, quindi non è che siano, penso, tutti patentati, no? Penso che siamo tanta gente che ha la qualifica del giardiniere che non abbiamo la patente, oppure che non sia abbinatore, proprio la patente C, capito? Ma è proprio la B, va bene, lo stesso. Che mi stavi parlando sempre lì, salutami KK. Ehi, ma io non stavo dicendo ancora, non c'è un bel discorso. Pare che tutti stanno ammalati dei giri. Chi 18 a Bassottina. Thank you. si dica. Comunque non ti pegare manco turbo e Capri. Pigliati la cinta che è meglio. È più bella e funge meglio. Thank you. ci sono problemi, capri due. Io te lo sto dicendo, però nel tetto mio ci cammina bene e niente, ne scendi il tutto, infili il tutto e poi tiri tutto su. Tanto bene, me ne vado a Dudu. Ciao, buonanotte.